Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, il direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, nuova poesia di Luca Sardo Giambonino, dal titolo Iperbole d'odio. Sporche, sozze, luride, bugiardissime e malelingue. Auguro che le parole vostre vi si ritorcano contro come pietre scagliate all'incontrario e che possiate soffrire nei più terribili e orribili modi, agonizzando fino all'ultimo fiato mefitico vostro. Siete i più spregevoli esseri che l'umana razza potesse mai generare. Dal canto mio, dottore in filosofia sono io, e nobile, e già brindo la vostra fine. Insegnato mi è stato fede, speranza e carità, e per voi, in fin dei conti, non provo altro che un'immensa, incommensurabile pena. Le vostre parole non mi toccano, io conto di star come torre che già mai crolla il soffiar dei venti.